Buongiorno Chiesa, come stai? Bene, voglio dare proprio un benvenuto a voi che siete qui fisicamente, ma anche a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa. Che Dio vi benedica, e la mia preghiera è che tutti quanti noi qui a casa, in Puglia, fuori dalla Puglia, tutti quanti noi, e nel frattempo possiamo accomodarci, possiamo essere equipaggiati, incoraggiati da quella che è una parola, un messaggio molto semplice questa mattina. Perché sapete, il messaggio della parola di Dio, il messaggio che Gesù è venuto a portare qui, si è fatto carne e l'ha portato per noi, non è così tanto complesso. Sapete, il messaggio del Vangelo è accessibile, è semplice e può cambiare la vita di chiunque crede. Dio è buono, Gesù salva. Noi che lo abbiamo accettato nel nostro cuore siamo i suoi figli. Amen? Benissimo. Allora, questo è l'ultimo messaggio del 2020. È l'ultima domenica del 2020. Ce l'abbiamo fatta! Sì, puoi dire a chi ti sta accanto: bravo, ce l'hai fatta! Anche a casa, fatevi complimenti, ce l'abbiamo fatta! E sapete, noi non possiamo sapere quello che è. C'è qualcuno che dice: no, non ce l'ho fatta ancora. Ce l'hai fatta, ce l'hai fatta. Non possiamo prevedere quello che il 2021 ci ha preparato, quello che ci riserva. Ma siamo tutti quanti d'accordo che speriamo che questo 2021 sia un tantino più tranquillo e più semplice di quello che è l'anno che ci stiamo lasciando alle spalle, vero? Non che, insomma, ci voglia così tanto per il 2021 ad essere migliore. È un po' come quando i miei alunni di quinta elementare, dopo le vacanze di Natale o ancora più spesso dopo la pausa estiva, mi guardano e con grande stupore esclamano ad alta voce, davanti a tutti, tutte le mamme, tutti i papà, tutti i miei colleghi, mo, che è una tipica espressione barese di stupore, mo, maestra, sono più alto di te. E ti viene proprio da dire: vabbè, che io 1,58 sono, non è che ci voglia tutto sto impegno ad essere più alti della maestra. Però è un po' quello che, diciamo, vogliamo sia, e questo 2021, leggevo una vignetta su Facebook che diceva: se fossi il 2021 avrei un'ansia da prestazione pazzesca. Ed è così, vogliamo che quello che ci aspetta sia un anno più tranquillo, un anno più semplice. Però la realtà è che non lo sappiamo quello che ci aspetta. Ma possiamo prepararci a vivere al meglio quello che è l'anno che si sta per aprire. E non c'è strumento migliore, se non la Bibbia, dal quale attingere delle verità, dei principi che ci possono equipaggiare, che ci possono preparare a vivere al meglio i prossimi 365 giorni. Lo vogliamo fare? Qualsiasi cosa accada, che sia facile, che sia difficile, qualsiasi cosa accada, dalla Bibbia oggi impareremo tre verità molto semplici che ci andranno a preparare a vivere al meglio quello che Dio ha in serbo per noi nel 2021. Ci siamo? Vi piace? Meno male, perché questo è il messaggio. Allora, io ho trascorso felicemente tutte le vacanze natalizie, la vigilia, Natale, Santo Stefano, tutte studiando. Quello che andrò a condividere con voi è frutto di, chiaramente, preparazione e studio. Quindi, non dico a casa, però se volete anche, ma almeno noi che siamo qui, svegli, zelanti, che mi date feedback, che mi dite amen, che mi dite alleluia. No, no, va bene Joy, pure tu zia, di brava zia, mi piace quello che stai dicendo. Andremo a leggere il Salmo 90. Ho chiesto a Gianluca il permesso, posso predicare sul Salmo? Anche io c'ho un po' l'ansia della prestazione, come il 2021, ma andrà bene. Leggeremo il Salmo 90. E questo è il Salmo più antico dei 150 che abbiamo. Perché? Perché, come possiamo leggere dal primo versetto, che non è il titoletto, è proprio il versetto del Salmo, questo Salmo è stato scritto da Mosè. E quindi deve essere necessariamente stato scritto anni e anni prima di quando Davide ha incominciato a scrivere la maggior parte dei salmi che possiamo leggere oggi. E questa è una preghiera, no? Che Mosè scrive a Dio. E gli studiosi possono collocano questa preghiera in due periodi della vita di Mosè. Non si sa con precisione, ma probabilmente Mosè ha scritto questa preghiera o prima di entrare nel deserto e trascorrere i 40 anni del deserto. E possiamo vedere che non era un periodo così facile, perché come leggiamo in Numeri 13 e 14, leggiamo proprio di come Mosè con tutto il popolo era alle porte della terra promessa. E che cosa fa? Manda 12 persone a perlustrare, no, il territorio, così da prepararsi al meglio per la conquista di questa terra promessa. Di questi 12, di queste 12 spie, 10 ritornano con un feedback negativo. Mosè, scordatelo. Cioè, signore, secondo me si è sbagliato. Perché proprio non ci sta modo, non è possibile che noi possiamo conquistare questa terra in quanto ci sono i giganti, in quanto non appena metteremo piede, moriremo. Allora, tanto vale che morivamo in Egitto. Solo 2 persone sono tornati da Mosè e hanno detto: si può fare benissimo, il nostro Dio è grande e lui ci aiuterà a adempiere la sua promessa. Chiaramente il popolo, a chi ha dato ascolto? Alla maggioranza, come spesso succede. E quindi di conseguenza, piuttosto che avere fede, sono stati presi da paura. E la conseguenza di questa sfiducia nei confronti di Dio li ha portati a trascorrere i successivi 40 anni nel deserto. Oppure, altri studiosi dicono che Mosè può aver scritto questo salmo dopo il periodo trascorso nel deserto. Come leggiamo in Numeri 20, anche quello non è che era un periodo così gioioso per Mosè, perché vediamo che perde sua sorella, Miriam muore, perde il fratello, Aronne, muore pure lui. Ma ancora più grave, vediamo che a causa della sua disubbidienza a un comandamento ben preciso, un'indicazione ben precisa che Dio aveva dato a Mosè, Mosè disubbidisce, invece di parlare alla pietra, la percuote con il suo bastone e di conseguenza Dio gli dice: Mosè, tu non entrerai nella terra promessa. Quindi siamo d'accordo che o che l'ha scritto prima o che l'abbia scritto dopo, si parla di un periodo piuttosto difficile, si parla di un periodo caratterizzato da sofferenza, caratterizzato da lutto, caratterizzato da scoraggiamento. E proprio nel bel mezzo di questa situazione, di queste circostanze, Mosè fa questa preghiera e guarda a queste promesse, a queste verità, no, che andremo a leggere, e queste verità che sono state così tanto fondamentali per la vita di Mosè, io credo che debbano essere fondamentali per noi affinché possiamo vivere qualsiasi circostanza in un modo saggio, in un modo esemplare, proprio come quello di Mosè. Mosè guarda queste verità e prega queste verità e confessa queste verità e da queste verità ne trae vigore, ne trae incoraggiamento, ne trae prospettiva. Bene, questo è quello che è quello che io voglio, la mia preghiera è che questo succeda a noi qui a casa, che approcciandoci, che leggendo queste verità, possiamo trarre un vigore e una prospettiva nuova che ci equipaggia a vivere il tempo che abbiamo dinanzi, qualsiasi esso sia, in un modo saggio. Volete? Volete scoprirlo con me? Sì? A casa? Benissimo. Gesù, aiutaci a trarre la tua prospettiva, a imparare ad abbracciare le tue verità attraverso questo salmo, che possiamo da te, Spirito Santo, essere equipaggiati a vivere al meglio la vita che tu ci doni. Grazie Gesù. Amen. La prima verità, la possiamo leggere? Dio è eternamente grande. Dio è eternamente stabile. Dio è eternamente potente. È proprio questo che prega Mosè quando dice: oh Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e il mondo, anzi, da sempre e per sempre, tu sei Dio. Amen? È bellissimo, sono delle parole potenti. E la cosa meravigliosa è che questi versi, ma in realtà tutta la preghiera che Mosè rivolge a Dio, non è per niente incentrata su se stesso, non è incentrata su Mosè. Non è incentrata sulle circostanze che abbiamo descritto poc'anzi, non è incentrata sulla difficoltà, sul lutto, sulla sofferenza, ma è incentrata sulla grandezza, sulla potenza eterna di Dio. Impariamo da Mosè, Chiesa, impariamo da Mosè. Nel bel mezzo delle nostre circostanze, oh, che le nostre parole non possano essere descrittive della situazione, che non possano semplicemente descrivere quanto è difficile, quanto è pesante il problema, ma che piuttosto possano descrivere e possano confessare la potenza, la grandezza e la fedeltà di Dio che dura di generazione in generazione. Amen, Chiesa? Che le nostre preghiere in questo 2021, che certamente sarà migliore nel nome di Gesù del 2020, ma non saranno tutte rose e fiori. La Bibbia ce lo dice. Il vento soffia, la pioggia scende, la valle arriva. Che in quella valle, che in quella tempesta, noi possiamo nelle nostre preghiere non solo chiedere aiuto, ma anche esaltare e lodare e adorare la grandezza di Dio. Amen? Impariamo da Mosè. Dio è eternamente grande e dice: oh Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione, un rifugio. Sapete, rifugio dall'ebraico si può tradurre il termine ma'on è in ebraico, si può tradurre anche come casa, come dimora, come posto intimo, come casa. Mosè, nel bel mezzo della tempesta, dice: oh Signore, tu sei stato per me casa. Falla scendere questa verità nel tuo cuore. Mosè, in Dio, si sentiva a casa. Si sentiva protetto. Si sentiva curato, accudito, guidato, si sentiva comodo di essere se stesso. Non era una costrizione per Mosè stare alla presenza di Dio, perché era a casa. Oh, che in questo 2021 ci possiamo sentire a casa con Dio. Siamo a casa con Dio. Sei intimo con Dio. O lo fai rimanere all'ingresso? Lo fai entrare nella parte più intima del tuo cuore ad intermittenza, solo quando ti conviene, solo quando sei disperato o solo quando è comodo. No, no, no, Dio è per noi casa. E lo è stato di generazione in generazione e non smetterà oggi di essere casa per i suoi figli. Amen? Siamo intimi, lo stiamo dicendo tante volte, no? Con questa serie, parlami, prega, adora, ringrazia, leggi, medita, invita. Questo vuol dire stare a casa con Dio. Facciamolo, Chiesa, facciamolo, perché solo in questo modo possiamo avere possiamo essere equipaggiati a vivere al meglio il tempo che ci sta dinanzi. Sì? E continua e dice: oh, prima che i monti fossero nati, che avessi formato il mondo, anzi no, ancora da prima, dice Mosè, no, ancora prima della formazione del mondo, tu da sempre, per sempre, sei Dio. Che cosa sta facendo Mosè? Nel bel mezzo della tempesta, lui sta adorando Dio. Lui lo sta esaltando, lui sta magnificando Dio. Che significa magnificare? Significa rendere qualcosa di grande ancora più grande. Ora, Dio è grande, o che noi lo diciamo, o che noi non lo diciamo, Dio è grande, Dio è meraviglioso. E quello che possiamo imparare da Mosè è sottolineare con le nostre parole, con il nostro modo di pregare, sottolineare, esaltare, evidenziare la grandezza di Dio. Perché questo ci permetterà di non stare con il capo chino, con una visione miope sulle circostanze che ci aspettano, ma ci aiuterà ad alzare il nostro volto, ad alzarlo verso il Dio Altissimo e a magnificare la sua grandezza. Dio, tu sei grande. Dio, tu sei meraviglioso. Dio, tu sei al di sopra. È proprio questo che stava facendo Mosè. E non che a Dio servisse, lo ripeto, perché Dio rimane grande. Ma il punto è che Dio, che Mosè l'ha fatto comunque. E questo ha ravvivato la sua fede, ha portato gioia nel suo cuore, non solo per lui, ma Mosè l'ha fatto anche per il popolo che lo stava ascoltando. Allora la domanda per me è questa: come le nostre preghiere, le nostre parole, come descrivono Dio? Di che Dio parliamo? Di un Dio grande? O di un Dio che è buono di intermittenza? Di un Dio sovrano e potente di età in età? Oppure di un Dio che non è in grado di risolvere, non è in grado di rispondere alle preghiere? Come descriviamo il nostro Dio? Sapete, quando studiando ho letto questo esempio, che mi ha fatto capire ancora meglio che cosa significa magnificare qualcosa che è già grande. Dio è già grande. Allora pensiamo alle stelle, nell'universo. Ci sono milioni di stelle, grandissime, stratosferiche, meravigliose, bellissime. E la maggior parte delle persone non conosce la bellezza di queste stelle. Fino a quando qualcuno non permette loro di osservare queste stelle attraverso la lente di un telescopio. E allora c'è stupore, c'è meraviglia davanti a così tanta bellezza. Dio è grande, è eternamente grande. E ci sono persone che non lo conoscono, che non riconoscono la sua grandezza. Noi, con il nostro modo di parlare, con il nostro modo di vivere, con il nostro modo di pregare, possiamo essere quelle lenti del telescopio, possiamo essere quelle lenti che, come dire, rivelano, ecco, la grandezza di Dio. Amen? che nel 2021 le nostre parole possano essere delle parole che esaltano, che magnificano la grandezza di Dio. Amen? Seconda verità. La prima verità, Dio è eternamente grande. La seconda verità è che Dio è grande, noi siamo fragili. Dio è grande, noi siamo fragili. Nel versetto 3:8 dice, tu fai ritornare Mosè, no? Verso Dio, tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici, ritornate, o figli degli uomini, poiché 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri quando è passato, o come una vigilia nella notte. Tu li porti via come un'inondazione, essi sono come un sogno, come l'erba che verdeggia la mattina. La mattina essa fiorisce, verdeggia, la sera è falciata e dissecca. Poiché siamo consumati dalla tua ira e siamo atterriti dal tuo furore, tu metti le nostre colpe davanti a te, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. Chiaramente questi versi sono strettamente connessi alla storia, no? che il popolo di Israele stava vivendo, aveva peccato, stava vivendo le conseguenze del suo peccato, ma fondamentalmente questi versi dal 3 all'8 non fanno altro che mettere a confronto, sottolineare la grandezza di Dio è la fragilità dell'uomo. Dio è potente, noi siamo deboli. Dio non è limitato dal tempo, noi invecchiamo. Dio non è limitato dallo spazio, noi siamo costretti nello spazio. Dio è al controllo, noi no. Dio è al controllo. Dio non è stupito dalle cose che sono successe o che continueranno a succedere. Non è che entra nel panico, che non aveva previsto. Dio è al controllo, anche quando noi non riusciamo a vedere questo controllo, anche quando noi non lo riconosciamo questo controllo. Dio è al controllo, siamo noi che non lo siamo. E questa per tanti, me inclusa, può essere una pillola amara. Perché a noi piace il controllo, però in realtà, Chiesa, impariamo che il fatto che Dio sia al controllo è una cosa che noi dobbiamo celebrare, è una cosa della quale noi dobbiamo essere grati, perché meno male che è Dio al controllo e che non lo siamo noi, meno male che l'evolversi della storia è scritta da un autore che è molto più grande di noi, da un autore che è molto più saggio di noi, da un autore che è molto più potente di noi. Amen? Non ci piace spesso, noi vogliamo avere il controllo e la cosa è che ci illudiamo anche di averlo. Io parlo per esperienza, io in un ristorante o in un bar sono quella che si siede alla postazione che mi permette di avere la visuale più ampia dello spazio, del luogo, perché devo capire chi entra, chi esce, chi ordina, non che mi voglio fare i fatti degli altri, ma il controllo. Io sono quella che in una festa si assicura che tutti quanti stiano parlando, che tutti quanti stiano socializzando, che in chiesa io mi assicuro che tutti quanti stiano lodando, che tutti quanti hanno le mani alzate. Ci piace il controllo. Io ero quella che fino a qualche tempo fa aveva un grande problema con Dio quando le situazioni andavano in una maniera diversa da come io avevo programmato. Sono poche le cose che possiamo controllare, molto poche. E il 2020 ce l'ha insegnato senza mezzi termini. I piani, i progetti che noi avevamo il 7 marzo, l'8 marzo, il giorno dopo, sono dovuti cambiare tutti. Matrimoni, conferenze, vita familiare, vita scolastica, vita lavorativa, è cambiato tutto. Parlando di controllo, noi non ce l'abbiamo e non è una cattiva notizia, perché il controllo ce l'ha un Padre buono, ce l'ha un Dio eterno e quindi possiamo riposarci. Dio ha il controllo, noi no. Fatelo con me. Meno male, possiamo riposare, perché la mano di Dio è più potente della nostra. Amen? Quindi, prima verità, Dio è eternamente grande, magnifichiamolo. Seconda verità, noi siamo fragili, riposiamoci. Riposiamoci in Lui, impariamo a fidarci di Lui. Terza verità, che è il pezzo forte. Ci siete? Ci siete a casa? Non spegnete, non vi distraete. Che vi guardo, c'ho il controllo, una bugia. Terza verità, ogni giorno è un dono. Ogni giorno è un dono. Viviamolo per Gesù. Verso dal 9 al 12 dice, poiché tutti i nostri giorni svaniscono nella tua ira, finiamo i nostri anni come un sospiro. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni o per i più forti a 80, ma quel che costituisce il loro orgoglio non è che travaglio e vanità. Come risuonano le parole del re Salomone, no? Quelle che ha scritto in Ecclesiaste, tutto è vanità. Perché il tempo, no? La vita passa in fretta e noi ce ne vogliamo via. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo furore secondo il timore che ti è dovuto? Insegnaci dunque, siccome la nostra vita è breve, insegnaci dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio. Insegnaci dunque a contare i nostri giorni, a vivere i nostri giorni al meglio, a vivere secondo la volontà di Dio i nostri giorni, perché sono un dono, affinché possiamo viverli in una maniera saggia, in una maniera intelligente, in una maniera guidata, ispirata dallo Spirito Santo. C'è un detto popolare che si incomincia a recitare subito dopo Ferragosto. Ora, durante il primo incontro, questo detto non lo sapeva nessuno, ma vediamo al secondo. Allora, incomincia così. Natale, chiamalo! Niente. È un detto che conosco solo io. Comunque il detto dice, Natale, chiamalo che è arrivato. Eh? Ah. Che sta proprio a sottolineare quanto il tempo scorre in fretta. E nella quotidianità magari non ci pensiamo così tanto, no? Siamo presi dal fare, andare qui a destra e a sinistra, non ci pensiamo così tanto, ma quando ci fermiamo a pensare, quando magari vediamo delle foto, o quando un adolescente ti chiama signora, che Dio lo benedica, allora sì, ti accorgi che il tempo va e va in fretta. Ed è interessante come Mosè ci insegna stamattina a non considerare il nostro tempo, la nostra vita, in termini di anni. Ma come abbiamo letto, lui ci insegna a considerare la nostra vita in termini di giorni. Insegnami a contare i nostri giorni. E noi facciamo esattamente il contrario, no? Quando uno ti chiede, quanti anni hai? È chiaro che non è che gli dici sono vivo da 2000, 21.000, meno male che altrimenti la matematica. Sarebbe difficile dire la proprietà. E noi diciamo gli anni. Allora se hai di meno di 25 anni, fai contare quel mezzo anno in più, no? È vero? Quanti anni hai? 17 e mezzo. Perché fra un po' divento maggiorenne, cioè 18 anni ed è cool. Se invece ce ne hai 29, allora ce ne avrai 29 fino al giorno del tuo compleanno e oltre. Come me, che ho 30 anni da 4 anni e continuerò ad avere 30 anni per sempre, di generazione in generazione. Comunque, scherzi a parte, Mosè ci ricorda che la vita fondamentalmente è breve, che noi non saremo su questa terra per sempre. E questa è un'altra cosa che il 2020 ci ha insegnato bene, senza mezzi termini. E allora la preghiera, il nostro impegno è che noi possiamo vivere il tempo limitato che abbiamo su questa terra in una maniera saggia, che noi possiamo contare i nostri giorni, ma il punto non è di contare i nostri giorni, è di vivere dei giorni che contino, no? Allora io ho fatto un po' un calcolo, non l'ho fatto da sola, ho coinvolto diverse persone perché la matematica non è il mio forte. Comunque, su una giornata di 24 ore, questo calcolo non vi vuole mettere ansia, ci vuole dare una prospettiva saggia. Tolte le ore di sonno, 8 ore. 8 ore. Non si dorme di meno di 8 ore, neanche di più. 8 ore. Tolte le 8 ore di lavoro, ok? Una media, ok. Tolte poi il tempo che dobbiamo necessariamente investire per la spesa, per andare al medico, per andare al meccanico, insomma, le faccende che o vuoi o non vuoi devi fare, ottimisticamente parlando, e anche per rendere il calcolo più semplice, ci rimangono, mettiamo 2 ore, ok? 2 ore. 2 ore al giorno di tempo che possiamo decidere, nette, che possiamo decidere come investire, perché su quello sì chiamiamo il controllo. Possiamo decidere, e possiamo decidere di spenderle saggiamente o di sprecarle. Stando a questo calcolo, in un anno abbiamo 30 giorni. Insegnami a contare i nostri giorni. Ecco la preghiera di Mosè, che diventa molto, molto contemporanea, diventa proprio che la dobbiamo vivere tutti i giorni. Aiutami Gesù, siccome il tempo è limitato, aiutami a viverlo bene, aiutami a contare i giorni che tu mi dai, aiutami a non sprecarlo, aiutami ad investire bene il tempo che tu mi dai per grazia di vivere. Questo era il cuore di Mosè e questo deve essere anche il nostro cuore per vivere una vita che conta, che è di significato, che è guidata dallo Spirito Santo. E allora io ho trovato, sempre da questo salmo, 3 consigli, ok? 3 suggerimenti per imparare a contare bene i nostri giorni. Li vogliamo ascoltare? Sì? Benissimo. Il primo è molto semplice. Come possiamo vivere al meglio il 2021? Primo, riconosci che ogni giorno è un dono, ringrazia e mettilo nelle mani di Gesù. Alle volte, non so se capita a voi, basta solo un pensiero la mattina, che non lo sai neanche tu da dove viene questo pensiero. Basta solo questo pensiero per rovinare il resto della giornata. Un pensiero come sei sola. Un pensiero come, ecco, un altro giorno di lavoro, di sfruttamento. Ecco, un altro giorno che sarà esattamente uguale a quello che ho passato. Sarà esattamente uguale a ieri. Basta un pensiero per rovinare e per sprecare quella giornata. E invece, anche se il giorno che stiamo per vivere fosse esattamente uguale a quello che abbiamo vissuto, rimane un regalo, rimane un dono, rimane la grazia di Dio sopra di te che si rinnova di giorno in giorno. E allora tu cosa fai quando ricevi un dono? Non dici grazie? Ringraziamo Gesù, ringraziamolo, perché non è nel nostro controllo il fatto che apriamo gli occhi la mattina, non è nel nostro controllo il fatto che respiriamo, non è nel nostro controllo, è Dio che lo permette. Non diamolo per scontato, perché questo ci permetterà di dare valore, di dare peso, di dare un significato a quel giorno. Grazie Gesù, do a te questa giornata. Guida le mie decisioni, guida la mia giornata di lavoro. Io non ci voglio andare a lavorare. Io tante volte la faccio questa preghiera. Un po' di confessione. Tante volte diciamo, Signore, non ci voglio proprio andare a lavorare. Dammi tu la forza. E poi il Signore me la dà. Ed è... E ogni giorno riserva un qualcosa di buono. Numero 2. Riconosci che ogni giorno è un dono. Numero 2. Gioisci, sempre, gioisci. Nei versi 13 e 15, dai 13 e 15, Mosè prega e chiede la gioia. Saziaci al mattino con la tua benignità e noi esulteremo e ci rallegreremo tutti i nostri giorni. Rallegraci! Rallegraci! Mosè chiede proprio: Signore, aiutami a gioire, dammi la gioia, fammi rallegrare. Immagina Mosè nel bel mezzo del deserto, dove mezza generazione stava morendo. L'altra metà e si lamentava ogni due per tre. Cioè non era facile gioire, ma proprio non era impossibile gioire. È per questo che Mosè l'ha chiesta a Dio la gioia. Perché solo Dio gli avrebbe dato la possibilità, la capacità di gioire. Di quella gioia che, come abbiamo sentito la settimana scorsa, non è circostanziale, ma è una gioia divina. È un dono divino. E allora facciamo la stessa preghiera contro la nostra carne, contro la nostra volontà. Facciamola questa preghiera: Signore, voglio pregarti come Mosè, fammi rallegrare. Non ci sa niente da essere felice, ma fammi rallegrare, dammi la tua gioia. Signore, tu sei la mia gioia. Perché ti abbatti, anima mia? Perché gemi, anima mia? No, io mi rallegrerò nel mio Signore. Questo vuol dire fare come Mosè, chiedere la gioia. Terzo e ultimo consiglio. Questo è bellissimo. Come dare valore, come contare i giorni del nostro 2021? Ogni giorno è un dono. Gioisci sempre e vivi per Gesù. Vivi per Gesù. Dedica la tua vita a Gesù. Nei versetti 16 e 17 dice: sia manifesta la tua opera, quindi Mosè dice a Dio, sia manifesta la tua opera a tutti i servi e la tua gloria ai tuoi figli. La grazia del Signore Dio nostro sia su di noi e rendi stabile per noi l'opera delle nostre mani. Sì, rendi stabile l'opera delle nostre mani. E quindi vediamo come in questi due versi c'è proprio un parallelismo tra l'opera di Dio e l'opera delle mani dell'uomo, l'opera delle nostre mani. La nostra vita, i nostri giorni acquisiscono valore quando l'opera di Dio e l'opera delle nostre mani coincidono. Quando è la stessa cosa. Non è bellissimo? E che significa? Che dobbiamo essere tutti pastori? No. Ce ne abbiamo due, basta. Che dobbiamo vivere, che dobbiamo lavorare tutti a tempo pieno per la Chiesa? Neanche. Ma nel nostro essere madri, nel nostro essere padri, figli, qualunque sia la nostra professione, insegnanti, studenti, operai, disoccupati, pensionati, tu puoi essere il facitore dell'opera di Dio. Tu puoi essere le mani e i piedi di Gesù su questa terra. L'opera di Dio può coincidere con l'opera delle tue mani. Amen? Come? Amando come Gesù ama. Predicando il Vangelo a chi non lo conosce. Servendo la Chiesa. Adoperandoci alla crescita e al vigore della Chiesa affinché il regno di Dio possa essere stabilito su questa terra e Gesù possa tornare. Questo sì che dà valore ai nostri giorni. Questo sì che ci fa contare i nostri giorni e ce li fa vivere bene. Allora, che cosa dobbiamo ricordarci per vivere un 2021 che conta? Che Dio è grande. Magnificalo. Che tu sei fragile e non ti preoccupare, riposati in Dio. Che la vita è un dono. Allora riconosci questo, ringrazia e vivi questa vita per Gesù. Vivila in Gesù e vivila per Gesù. Questo, qualsiasi cosa possa accadere nel 2021 e per il resto della tua vita, questo categoricamente, solo questo darà valore ai tuoi giorni. Se vivi solo per te stesso, la tua vita non ha tutto il valore che potrebbe avere. Perché Gesù dà valore ai tuoi giorni e ti insegna a contarli. Amen? Amen? Possiamo alzarci e chiudere i nostri occhi. E anche a casa io ti invito a chiudere i tuoi occhi, a metterti in preghiera. E io non posso concludere questo messaggio senza darti la possibilità di permettere a Dio di dare valore ai tuoi giorni, di dare valore alla tua vita. Se tu non hai mai qui e a casa, se tu non hai mai accettato Gesù nel tuo cuore e ti rendi conto che i tuoi giorni sono vuoti, che i tuoi giorni sono leggeri, che i tuoi giorni non hanno quel significato eterno, allora Dio e Dio soltanto può cambiare la situazione. Perché Dio vuole diventare casa per te, vuole essere il tuo rifugio, vuole essere il tuo Signore, vuole accoglierti come figlio. Allora, se tu non hai mai fatto questa decisione, io ti prego qui o a casa di alzare la tua mano, io voglio pregare per te. Allo stesso modo, se tu oggi, ascoltando queste verità, vuoi fare tua, non dico tutte e tre, ma almeno una, allora perché non alzi entrambe le mani al cielo e crederemo insieme allo Spirito Santo di equipaggiarci e di darci l'intelligenza e la capacità di vivere una vita che conta per Lui e in Lui. Signore Gesù, grazie perché Tu sei il nostro Signore. Grazie perché Tu sei colui che dà valore e un peso eterno alla nostra vita. E noi vogliamo darti da capo e da capo e ogni giorno, darti il nostro cuore, darti la nostra vita, affidarti i nostri giorni, affinché Tu, Signore, possa essere il capitano al timone e che noi possiamo essere una nave trasportata da Te, le cui vele sono riempite dal soffio Tuo, Spirito Santo. Aiutaci, Spirito Santo, a riconoscere che Dio è eternamente grande, a riposare nel fatto che noi siamo fragili e possiamo fidarci di Te e a dare valore, aiutaci come hai fatto con Mosè, a dare valore a ogni giorno che per la grazia Tua abbiamo da vivere. Gesù, non lo sappiamo come sarà il 2021, ma vogliamo viverlo in una maniera che Ti compiace. Vogliamo viverlo in adorazione a Te, vogliamo viverlo in ringraziamento a Te e essendo degli strumenti nelle Tue mani, Gesù. Grazie perché questo nobilita la nostra vita, solo questo nobilita la nostra vita. Nel nome Tuo, benedici la Tua Chiesa qui e a casa. Amen.